Notte di guerra, notte straniera, notte di stelle sulla bandiera, notte di guardia, notte di sabbia, notte di topi in una gabbia. Notte dispersa, notte distante, pericolosa, pericolante. Le ore di volo per tornare a casa, pochi minuti fino alla base. Notte di guerra, senza rumore, e un caricatore al posto del cuore. In questa valle, in fondo al mondo, in fondo a un buco molto profondo. E tu pensi a ieri, a prima di ieri, e pensi a domani, a dopodomani, all'ultima scena, al rallentatore, alla prima scena del prossimo errore. E ripensi a lei e se la rivedrai in qualche dove, in qualche quando. E pensi a tuo padre che è in turno di notte e che magari ti starà pensando. E penso che quando sarà finita, io farò sempre quello che voglio. E penso che quando sarà finita, io starò bene, io starò meglio. E penso che quando sarà finita, compro una moto e faccio il giro del mondo. Notte di guerra, guerra davvero, di mezzaluna, lungo il sentiero, molta paura, molto rancore, ed un Kalashnikov al posto del cuore. Notte di guerra, molto da odiare, pronti a scappare, pronti a sparare a questa gente venuta dal mare. Ma cosa sono venuti a cercare? Notte di freddo, notte di gelo, notte vicina al regno del cielo. Sguardi furtivi e sogni cattivi, compreso quello di essere vivi. Pensi a ieri, a prima di ieri, e pensi a domani, a dopodomani, all'ultima scena dell'ultimo errore, alla prima scena dell'unico amore. E ripensi a lei e se la rivedrai in qualche dove, in qualche quando. E pensi a tua madre sveglia di notte e che magari starà pregando. Occidentali attaccheranno certamente dall'alba, poco prima del sole, coi loro elicotteri, col silenziatore, coi loro proiettili che spaccano il cuore. Penso che quando, se sarà finita, non ci sarà nessuna esplosione. E penso che quando, se sarà finita, avremo tutti un un'altra occasione e penso che quando, se sarà finita, io sarò il vento e tu un aquilone.